La papessa Giovanna. Il IX secolo fu un'età di spade, di vento e di lupi, affermava un cronista dell'epoca. Carestie, peste, guerre civili e invasioni barbariche. Fu anche un'epoca di transizione da un periodo storico che stava declinando e lasciava inevitabilmente il passo a una nuova civiltà di cui si potevano solo intuire i contorni. In tempi così, nascere donna non era una benedizione. Voleva dire non godere di alcun diritto reale o giuridico, dover sottostare a una legge maschilista che avallava le violenze domestiche come pratiche normali a cui un marito poteva attenersi, subire un'ottusa mentalità basata sulla superstizione, secondo cui, ad esempio, avere le mestruazioni era una colpa, perché il sangue mestruale poteva far seccare le piante e rendere sterili i campi. Inoltre, nascere femmina voleva dire vedersi negata per tutta la vita la possibilità di istruirsi, a prescindere dalle doti intellettive e aspirazioni, perché l'istruzione della donna era scoraggiata, in quanto giudicata contro natura e pericolosa. Giovanna volle ribellarsi a tutto questo, seguendo la luce del suo intelletto e, travestendosi da uomo, cambiò la sua vita e il suo destino. Giovanna di Ingelheim, Giovanna la papessa, un personaggio affascinante e scomodo per il ruolo che ha rivestito, di cui storici e cronisti medievali hanno reso ampia testimonianza nei loro manoscritti, circa 500, ma che, a partire dal primo Rinascimento, è sfumata sempre di più in una patina di leggenda talvolta dai caratteri grotteschi. Quando anche noi, come Scuola delle Donne, ci siamo avvicinate alla sua storia per saperne di più, ci è sembrato di vedercela davanti, con il suo sguardo luminoso e fiero, per metterci di fronte a una scelta dalla quale dipendeva il resto della nostra ricerca su di lei, crederla o non crederla. Questo era il passaggio, lo sliding door, su cui venivamo confrontate da subito. Perché sulla sua identità è stato davvero scritto tutto e detto tutto e il contrario di tutto. Nei riguardi di Giovanna si troveranno un'infinità di notizie e particolari, sia che si voglia perseguire la tesi della sua reale esistenza, sia che si voglia collocarla nella colorita fantasia popolare, salvo forse per il ritrovamento di alcune monete, fatto di cui tratteremo più avanti in questa tesi. A noi la scelta. Quale delle due versioni sentiamo più vera? E così noi della Scuola delle Donne ci siamo fatte condurre da lei in una rievocazione della sua vita attraverso le innumerevoli tracce che ha lasciato di sé nella nostra matria. Di seguito ne descriveremo le più importanti, perché a noi è risultato spontaneo crederla da subito e se possibile in queste pagine renderle l'onore che merita. Proverbio messicano. Hanno provato a seppellirci, ma non sapevano che eravamo semi. Capitolo 1. Tracce della vita di Giovanna. Giovanna di Ingelheim è stata una donna affascinante e misteriosa, di cui hanno parlato per secoli grandi nomi, quali Guglielmo di Ockham, Laurence Darrell e Petrarca. Anche il Boccaccio, nel suo De Claris Mulieribus, delle donne illustri, del 1546, così scriveva di lei. Di costei, benché dicano alcuni Magonza essere stata la sua patria, così meravigliosamente diventata dotta e ornata di scienza, ormai giunta agli anni maturi, d'Inghilterra se ne venne a Roma, e morendo Leon V Pontefice Massimo, da reverendissimi cardinali, di comun volere fu eletta papa e chiamata Giovanni, alla quale, se fosse stata uomo, sarebbe toccato il nome di Giovanni VIII. Come si apprende dalle ricerche di Donna Woolfolk Cross, scrittrice e ricercatrice anglo-americana, che ha raccolto e studiato a lungo documenti e materiale di ogni genere sulla papessa, Giovanna nacque nell'814 a Ingelheim. Suo padre era un canonico di origine inglese e sua madre un'allevatrice di oche. In seguito si trasferì con la famiglia a Magonza, dove venne educata dal maestro Esculapio, che educava lei e i suoi fratelli, ovviamente. Cioè, più i suoi fratelli, lei si aggregò in un certo senso per la sua grande intelligenza e desiderio di sapere, di conoscere. Ella, infatti, era molto intelligente e nata con una gran predisposizione per le lingue, ad esempio, in grado, infatti, di padroneggiare in poco tempo sia il latino che il greco. L'identità maschile sembra che l'assunse. Ha quindi intorno ai 15 anni, quando acquisì appunto l'identità di suo fratello Giovanni, morto durante un'incursione vichinga nel villaggio dove vivevano. E poi, per 12 anni, si nascose nel monastero benedettino di Fulda. Da qui in poi lei si fece chiamare Giovanni Anglicus, celando le sue forme femminili sotto il saio e il cappuccio. Riuscì così a trascorrere questo lungo tempo dedicandosi alla lettura, alla scrittura e a comprendere il linguaggio affascinante delle arti e delle scienze. In seguito, grazie alla protezione del suo precettore, Esculapio, appunto, intraprese anche un importante viaggio in Grecia. Alla prestigiosa scuola di Atene, dove approdò, diventò esperta di filosofia e teologia. E studiò approfonditamente le scritture sacre della Chiesa ortodossa e di quella romana, potendone valutare le differenze. Intorno ai 30 anni, poi, decise di recarsi a Roma, nella città santa, crogiolo di razze e fulcro di sapienza e arte, che allora, come adesso, doveva esercitare un magnetismo particolare su chiunque fosse appassionato di bellezza e conoscenza. Nonché sede del soglio pontificio su cui a quel tempo risiedeva Papa Leone IV, che rappresentò un incontro determinante per Giovanna. Grazie alla sua conoscenza della lingua greca e alla sua competenza teologica, Giovanna, cioè Giovanni Anglicus, si fece estremamente apprezzare nell'ambiente clericale. Diventando addirittura segretario di Papa Leone IV, di cui aveva conquistato e meritato la fiducia, così come dell'intera gerarchia ecclesiastica, tanto che alla morte di quest'ultimo sembrò quasi scontato che, in qualità di nuovo pontefice della Santa Romana Chiesa, venisse proprio eletta lei, Giovanna, una donna travestita da uomo per essere libera. Con il nome di Giovanni VIII. Da qui in poi si avvia l'epilogo della sua incredibile storia. 2 anni, 3 mesi e 4 giorni. Tanto è durato il suo pontificato, fino a che il fato sembra averle messo davanti una sfida o una prova, per confrontarla forse sul senso più profondo dell'esistenza. E Giovanna anche qua non si è tirata indietro. Ella si innamorò presumibilmente di un giovane del suo seguito che ne aveva scoperto l'identità segreta e dopo qualche tempo si accorse di aspettare un figlio da lui. Nascose la gravidanza sotto gli abiti papali, fino a quando, durante una processione pasquale che era solita svolgersi tra San Pietro e i palazzi lateranensi, mentre era in sella al suo cavallo, fu colta dalle doglie e dinanzi agli occhi esterrefatti dei presenti diede alla luce un figlio. Giovanna e il suo piccolo giacevano a terra, così si racconta, e la folla da acclamante diventò feroce, facendo scempio dei loro corpi. Il segreto era stato rivelato. Un papa femmina. Mai prima di allora era accaduta una cosa simile nella storia della Chiesa di Roma e mai sarebbe dovuta più accadere. I suoi successori faranno di tutto per cancellarla dai registri pontifici e nei libri di storia non ci sarà alcuna menzione di lei, ma nonostante questo, la figura carismatica di Giovanna non verrà mai completamente dimenticata. Rimarrà nella memoria popolare impastata di leggenda e emergerà in modo sempre più forte nelle innumerevoli tracce che in vari ambiti ha lasciato di sé. Da Tra poco ve ne proporremo alcune che abbiamo ritenuto più rappresentative. Adesso qualche citazione dal libro La Papessa di Donna Woolford Cross. La scrittrice Donna Woolford Cross ha raccolto e studiato fonti storiche, documenti e materiale di ogni genere per ben 7 anni riguardo alla papessa Giovanna, dopodiché ha scritto il romanzo a lei dedicato. Di seguito vi presenterò alcuni passaggi delle 3 tappe principali della vita di Giovanna. La prima, quella della sua presenza ancora da donna nella scuola, nella scuola dove era stata chiamata a, insieme ai suoi fratelli e dove era stata voluta dal suo precettore Esculapio, proprio perché lui fu un grande sostenitore di Giovanna, perché riconobbe e rese onore al suo grande intelletto, alla sua grande intelligenza. E poi il secondo passaggio sarà a Fulda, nel periodo intermedio, diciamo, della vita di Giovanna, quando lei già assume l'identità maschile, e l'ultimo passaggio sarà in carica al Soglio Pontificio. Adesso, appunto, Giovanna si trova nella scuola di Dorstadt, come ci racconta Donna Woolfolk, in cui viene mandata a studiare insieme al fratello Giovanni, su insistenza di Esculapio, il loro precettore, appunto, che credeva fermamente nelle sue capacità e nella sua intelligenza. Il vescovo le è propizio, ma il direttore della scuola, Odo, non la vuole, e tra lui e Giovanna si svolge il seguente dialogo. Tu sai bene, Eminenza, che non approvo questo tuo ultimo capriccio. È pericoloso e sacrilego ammettere una donna alla scuola. Le donne sono, per natura, assolutamente incapaci di ragionare. Il suo sguardo si posò di scatto su Giovanna, con una chiara espressione di rifiuto. Poi tornò al vescovo. I loro umori naturali, che sono freddi e umidi, non sono propizi all'attività cerebrale. Esse non possono comprendere i superiori concetti morali e spirituali. Odo assunse un tono autoritario. Le donne sono congenialmente inferiori agli uomini. Perché? La parola le era uscita di bocca prima ancora che Giovanna si rendesse conto di aver parlato. Odo sorrise, tirando sgradevolmente indietro le labbra sui denti. Sembrava una volpe, sicura di aver incastrato un coniglio. La tua ignoranza, bambina, si palesa in questa domanda. Perché San Paolo stesso ha asserito tale verità, che le donne sono inferiori agli uomini per concepimento, per luogo e per volontà? Per concepimento, per luogo e per volontà, ripeté Giovanna. Sì. Odo parlava lentamente e distintamente, come se stesse rivolgendosi a un imbecille. Per concepimento, perché Adamo è stato creato per primo ed Eva solo in seguito. Per luogo, perché Eva è stata creata per servire Adamo, come moglie e compagna. Per volontà, perché Eva non ha potuto resistere alla tentazione del demonio e ha mangiato la mela. Giovanna provò un'intensa avversione per quell'uomo. Per un momento rimase in silenzio, tirandosi piano la punta del naso. «Perché?» disse finalmente. «La donna è inferiore per concepimento, poiché, sebbene sia stata creata in un secondo tempo, è stata creata dalla costola di Adamo, mentre Adamo è stato foggiato dalla volgare argilla». In fondo alla sala si udirono diversi risolini di apprezzamento. Per luogo, le parole le uscivano ormai da sole, mentre i pensieri di Giovanna sfrecciavano innanzi ad aprire il cammino al ragionamento. La donna dovrebbe essere preferita all'uomo, poiché Eva è stata creata all'interno del paradiso, ma Adamo è stato creato fuori. Dal pubblico si levò un mormorio prolungato. Il sorriso di Odo vacillò. Giovanna continuò, troppo coinvolta dallo svolgersi del suo ragionamento per badare a quello che faceva. In quanto alla volontà, la donna dovrebbe essere considerata superiore all'uomo. Era un'idea questa, temeraria. Ma ormai non poteva più tornare indietro. Perché Eva ha mangiato della mela per amore di sapere e di conoscenza, ma Adamo ne ha mangiato solamente perché Eva gli ha chiesto di farlo. Nella sala calò un silenzio scandalizzato. E adesso un pezzo appunto di nuovo uno spaccato di vita quotidiana di Giovanna, stavolta a Fulda, nell'abbazia dove appunto, come ho detto prima, lei prende l'identità maschile appunto di suo fratello che purtroppo muore 4 anni dopo, quindi. E qui viene messo in evidenza dalla scrittrice che ha parlato di lei, appunto, come le sue identiche qualità, cioè tutte le sue capacità che porta nella comunità in cui si trova, nella comunità di studio, da donna, da femmina, appunto, sono sminuite, sono, si ritorcono contro di lei quasi come un boomerang, perché vengono vissute in una luce di quasi scandalistica, no quasi scandalistica, di vergogna, disprezzo, mentre adesso sentite cosa dice quando le solite qualità appunto le porta nella comunità dove è da uomo, quando tutti pensano appunto che lei sia un uomo, sia Giovanni Anglicus. Le stesse qualità intellettuali che come donna le avevano procurato derisione e disprezzo, lì erano universalmente lodate. La vivacità d'ingegno, la conoscenza delle scritture e l'arguzia del dibattito erudito divennero motivo di orgoglio per tutta la comunità. Era libera, anzi stimolata, a lavorare all'estremo limite delle sue capacità. Tra i novizi venne rapidamente promossa a seniorus. Ciò le consentì una più ampia libertà di accedere alla celebre biblioteca di Fulda, un'enorme collezione di circa 350 codici, inclusa una serie straordinariamente pregiata di autori classici. Vagava tra gli ordinati scaffali pieni di rotoli in preda a un trasporto estatico. Le pareva che tutta la conoscenza del mondo fosse lì, a sua disposizione. E adesso un ultimo scorcio della sua, diciamo, terza parte appunto della vita, quella in cui lei viene, riveste la sua nuova e incredibile carica di papa, di papessa, appena eletta. È commovente sentire la descrizione di lei, come lei riesce a declinare tutta la sua femminilità, il suo potere femminile, nella carica più alta maschile che nella Chiesa ci poteva essere. Si evince questa sua capacità, per esempio, da questa scrittura, da queste parole. Per prima cosa, questo appena eletta, per prima cosa Giovanna fece a piedi il giro della città, accompagnata da un seguito di ottimati e guardie, visitò ognuna delle 7 regioni ecclesiastiche, salutò gente e ascoltò le sue afflizioni e i suoi bisogni. Poi Donna Woolfolk racconta come Giovanna avesse anche istituito una scuola per le donne, perché le ragazze avessero la possibilità di istruirsi e le aveva dedicate a, cioè la scuola l'aveva dedicata a Santa Caterina, una santa studiosa di cui le raccontò per primo un suo amato fratello che morì giovane e con cui, a cui Giovanna era rimasta estremamente attaccata affettivamente. E Santa poi Caterina di Alessandria, vero? Non Santa di Caterina di Alessandria, Siena. Santa Caterina Ok. di Alessandria. E poi una cosa toccante è che sembra che Giovanna venisse chiamata Papa Populi, cioè il Papa del Popolo, perché veniva ripetuta all'infinito la storia di come lei fosse uscita un giorno in cui il Tevere era esondato e lei fosse uscita senza timore e con grande compassione per il suo popolo, rischiando la vita per cercare di salvare le persone nelle casette, di come si adoperasse per interpretare i bisogni degli ultimi, tanto che, dice Donna Woolcock, Giovanna traeva forza e conforto dal loro amore e a essi si dedicava con rinnovato fervore. Vi presento il secondo capitolo che è dedicato alla testimonianza, cioè all'esistenza che Giovanna non è stato un personaggio di fantasia, ma è stata una persona, un personaggio storico che ha lasciato delle tracce importanti dietro di sé e che ha rivestito una carica incredibile all'interno della Chiesa di Roma, appunto, estremamente maschilista e all'interno di cui Giovanna si è fatta breccia e ha lasciato una traccia importante. Inizio con la prima prova della sua esistenza, l'edicola di Via dei Querceti a Roma. Il luogo dove avvenne il parto e la morte della papessa Giovanna è situato alla vecchia biforcazione di Via San Giovanni in Laterano e Via dei Querceti. Questo fu detto anche Vicus Papisse, vicolo della papessa. In questo luogo venne posta a memoria dell'accaduto un'edicola che è tuttora esistente e che sembra essere una delle più antiche di Roma. L'edicoletta è in una posizione inusuale, ad altezza uomo. Al suo interno è presente un affresco molto deteriorato che sembra raffiguri la Madonna con Gesù bambino. L'affresco è stato di sicuro modificato nel corso dei secoli. In quest'ultima forma, Maria tiene le mani congiunte sul petto verso destra, mentre il bambino sembra lasciato senza sostegno delle braccia della madre. L'immagine così composta risulta posticcia e poco verosimile. In realtà, diversi critici d'arte pensano che ci sia stata una sovrapposizione pittorica e che in origine ci fosse l'immagine cinquecentesca della papessa Giovanna, così come è raffigurata di solito, cioè con il bambino in braccio. Cosa alquanto curiosa è che dalla Santa Sede venne data disposizione che le successive processioni papali verso San Pietro non sarebbero più dovute passare dal vicolo della papessa. E questa decisione, anche se qualcuno dice che era solo perché per una questione di strettezza della stradina, in realtà sembra proprio sottolineare l'intento di volerne cancellare qualsiasi memoria. Altra traccia, le tre sedie del Papa. Stercoraria era il nome della prima sedia su cui venivano fatti sedere i papi neoeletti durante la cerimonia di investitura nella Basilica di San Giovanni in Laterano. E poi c'erano altre due misteriose sedie porfiteriche, cioè di porfido, una rossa e una grigia, nella cappella di San Silvestro, che facevano sempre parte del rituale di investitura del nuovo pontefice e che sembravano strettamente collegate alla papessa Giovanna. Questi rituali di possessione papale, cioè Quando un nuovo pontefice prendeva formalmente possesso della cattedrale e del palazzo lateranense, si protrassero fino al 1513, quando poi Papa Leone X li soppresse. All'interno del portico della Basilica Vaticana c'era una sedia bianca di marmo, semplice e disadorna, forata nel centro della seduta. Era la sedia stercoraria, sedia del letame, appunto, dove il neopapa doveva sedersi in segno di umiliazione e con la promessa di abbandonare le vanità della vita materiale. Successivamente i cardinali lo conducevano alla chiesa di San Silvestro, dove si trovavano le due sedie di Porfido, una a destra e una a sinistra. Anche queste due sedie erano perforate e con lo schienale reclinato. Qui la cerimonia proseguiva con i gesti simbolici di ricevere la ferula, simbolo di regola e di governo, e le chiavi del palazzo lateranense, simbolo del potere di legare, sciogliere, aprire e chiudere, e di gettare 3 volte 10 denari verso il popolo in segno di magnanimità e giustizia. Misteriosa e inspiegata era appunto la postura del Papa mentre sedeva sulle sedie di Porfido. Il Papa doveva sedervisi in modo tale da sembrare sdraiato piuttosto che seduto, in una posizione che ricordava una partoriente. L'Ordo Romanus XII, scritto intorno al IX secolo, è la prima fonte a descrivere tale cerimonia. Alcuni ricercatori hanno visto in questo rito anche la soluzione per scongiurare, dopo Giovanna, un'altra possibile infiltrazione femminile sul soglio pontificio. Le sedie perforate del cerimoniale, secondo questa interpretazione, servivano ad effettuare la probatio sexus del nuovo papa, di cui venivano verificati gli attributi maschili previa palpazione, introducendo la mano sotto la sedia ed infine esclamando testiculo habet et bene pendentes, e gli astanti rispondevano in coro Deo gratias. Leone IX fu appunto l'ultimo a utilizzare le 3 sedie che oggi sono conservate, una al Louvre, una nei Musei Vaticani, mentre la sedes stercoraria si trova nel chiostro del Laterano. Altra traccia, le monete. La vergogna e lo sdegno che suscitò la storia del papa femmina che aveva osato regnare sul trono di Pietro, che aveva sfidato la Chiesa cattolica da sempre contraria al sacerdozio femminile, fu tale che, come abbiamo detto, si cercò in ogni modo di cancellarla. Tutti i dettagli riconducibili alla vita della papessa, comprese le registrazioni dell'epoca, furono eliminati, tutti tranne uno. Michael Abicht, archeologo, egittologo e ricercatore tedesco, del 2018 ha fatto un'interessante scoperta riguardo alcune monete d'argento trovate all'interno della necropoli vaticana, ubicata nel sottosuolo della Basilica di San Pietro, a 10 metri di profondità. Le monete di solito testimoniano la reale esistenza della persona che ha il diritto di emetterle. Nel Medioevo questa regalia era severa e solo poche persone esercitavano il diritto di emettere moneta, e questi erano l'imperatore, il re, il papa, alcuni nobili e chierici. Durante la reggenza di Papa Leone III, predecessore di Giovanna, il papato divenne dipendente dall'impero carolingio. Questo stato, da quel momento in poi, coniò monete d'argento con la seguente combinazione. Da un lato era del papa, un altro dell'imperatore. Come firma, in quel periodo, venivano utilizzati i monogrammi. Il monogramma più famoso è quello di Carlo Magno. Le monete, quindi, sono un condensato di storia, ci raccontano di papi e imperatori e di come le loro vite si sono intrecciate. Ognuno aveva un monogramma personalizzato come distintivo. Ad esempio, Leone III firmava Leo P, in combinazione con Carlo Magno. Leone IV, che si insediò successivamente, usava il monogramma Leo Pa, combinato con quello dell'imperatore Lotario I. Dopo ci fu Papa Benedetto III, le cui monete sono note in numismatica per essere combinate con due imperatori, in quanto il padre Lotario I abdicò in favore del figlio Ludovico nell'855. Le monete, ritrovate di recente sotto il comprensorio del Vaticano, sono particolari perché anch'esse appartengono alla tipologia di moneta combinata, quindi al periodo carolingio, ovvero seconda metà dell'Ottocento. Le monete recano al centro un monogramma semplice con le lettere Iani in orizzontali e le lettere S e O in verticale, circondate dalla classica scritta SCS Petrus. Il monogramma è costruito con le lettere dritte su un quadrato. Tutte le lettere hanno una barra centrale che conferisce loro una spiccata tridimensionalità. Importante è anche la disposizione della S e della O, che lo rendono simile, ma non uguale, al monogramma di un successivo Papa Giovanni. Infine, sul retro di queste monete misteriose c'è il monogramma dell'imperatore Ludovico II, Ludovicus Imp, e il contrassegno della città di Roma. Questo fa pensare che il nuovo imperatore si trovasse proprio a Roma in quel periodo, e il cronista Corrado Boto, seconda metà del XV secolo, riferisce proprio dell'incoronazione di Ludovico II a Roma da parte di un Papa Giovanni. Tutti questi elementi fanno pensare che ci si trovi di fronte alle monete della papessa, con il suo specifico monogramma, un'indicazione straordinariamente chiara che Papa Giovanni VIII, il Papa Femmina, è a tutti gli effetti una figura storica. I manoscritti possono essere manipolati dalle parti interessate. Nell'Alto Medioevo poi c'erano solo pochi libri. La scrittura e la produzione libraria erano effettivamente monopolizzati dalla Chiesa. Le monete, invece, sono state stampate in gran numero e non è stato possibile ritirarle tutte dalla circolazione. Michael Abicht, studioso di antiche scritture e archeologo alla Flinders University di Adelaide in Australia, ha condotto questa ricerca sulle monete della papessa in modo indipendente ed ha asserito che sia da escludere l'ipotesi che esse possano essere dei falsi, perché non c'è quasi nessun mercato da collezione per monete medievali e pertanto i falsari non avrebbero avuto alcun interesse al loro riguardo. Altra traccia, il manoscritto. Per diversi secoli non c'è stato alcun dubbio che nella storia ci sia stato un papa donna, e chissà se è stata l'unica. Nella forma in cui la conosciamo oggi, la storia di una papessa Giovanna appare nel 1200 circa. A raccontarcela è Martin von Troppo, ovvero Martino Polono, il quale ci riporta la cronaca di un papa femmina e del suo pontificato, durato 2 anni, 3 mesi e 4 giorni. Nei secoli successivi, molti studiosi e cronisti testimonieranno la sua storia, ritenuta normalmente autentica. Nel tardo Medioevo, però, dal 1250 al 1500 circa, la Chiesa era nel marasma. Era questo il tempo degli antipapi. La figura di Giovanna ebbe quindi anche una valenza retorica per criticare indirettamente il caos in cui versava la Chiesa cattolica, per cui questa strumentalizzazione della sua figura rese sempre meno oggettiva la testimonianza della sua vita. Dal 1517 ci furono seri sforzi per rinnovare la Chiesa cattolica con Martin Lutero. Questa riforma portò a una divisione della comunità dei credenti fra chi ne chiedeva una revisione sostanziale della Chiesa e chi rimase invece fedele alla Chiesa stessa. Nel corso di tale periodo, che venne chiamato Controriforma, l'esistenza di un papa femmina divenne davvero inaccettabile per la Chiesa di Roma, che si premurò con ogni mezzo di disperdere ogni possibile traccia scritta che potesse consegnare ai posteri la scandalosa storia di Giovanna. Va ricordato, a tale proposito, che la stampa tipografica non è stata inventata fino al XV secolo, per cui gli unici documenti di quel periodo sono stati copiati soprattutto nei monasteri, perché la scrittura e la lettura non erano abilità diffuse. Da ciò si può ben capire come la Chiesa Cattolica abbia potuto togliere dalla circolazione o modificare quei manoscritti che non erano in linea ai suoi valori. Questo approccio revisionante divenne ancora più aspro dopo il Concilio di Trento. Il 13-12-1545 venne istituito il Concilio di Trento, indetto da Papa Paolo III. Il Concilio di Trento sarà un giro di boa epocale, dopo il quale niente nel mondo cattolico sarà come prima. La repressione di ogni forma di eresia sarà durissima. La Chiesa proibirà di leggere o conservare opere considerate eretiche. Sotto Paolo VI, nel 1559, verrà divulgato l'Indice dei Libri Proibiti. Ogni rito e sacramento verrà regolamentato fin nei più piccoli dettagli e l'Inquisizione, per mezzo della Congregazione del Santo Uffizio, darà via al massacro della caccia alle streghe. Uno dei libri che ha subito in quest'ottica una serie di pesanti revisioni è stato proprio La vita dei pontefici del 1479 di Bartolomeo Platina Cremonese. La sua opera ebbe un grande successo e fu ristampata innumerevoli volte fino al 600, sia in latino che nella versione italiana. Ebbene, nella sua storiografia pontificia, il Platina includeva Giovanna nella lista dei papi, identificandola proprio come Giovanni VIII. A seguito della Controriforma, però, la sequenza della lista venne rimaneggiata e si persero le tracce di lei e del suo periodo di reggenza. Altra traccia, altra testimonianza di lei, il busto della papessa a Siena. Esiste un altro luogo in Italia che portava la testimonianza della papessa Giovanna, ma anche qui sembra ci sia stato il tentativo di cancellarne ogni prova. Però si vede che come un seme, invece dell'oblio, aspettava solo il momento per rinascere dopo l'inverno. Ci troviamo a Siena, all'interno del Duomo, dove fra il 1497 e il 1502 furono messi in opera ben 172 busti di papi che correvano lungo tutta la navata centrale. Al Cristo con l'aureola posto al centro seguono in senso orario ed ordine cronologico San Pietro e tutti i papi fino a Lucio III. La galleria dei papi fu così apprezzata da avere risonanza in tutta Europa, tanto che molti personaggi illustri che scelsero il nostro paese come meta turistica passarono anche da Siena per ammirare tale opera. Ne citiamo due, ad esempio. Fitz Morrison, noto avvocato di Cambridge, nelle sue relazioni di viaggio annotò la presenza del busto della papessa posta fra Gregorio IV e Adriano II e rimase così affascinato da lei che volle approfondire le ricerche sulla sua vita tornato in patria. Invece, il viaggiatore francese Misson effettuò il Grand Tour d'Italia e notò il busto della papessa riportando nei suoi scritti l'iscrizione latina Adpositum statue nomen fuit Johannes VIII, femmina de Anglia. Poi ci fu il pontificato di Clemente VIII, il papa che mandò sul rogo Giordano Bruno, il quale ordinò al granduca di Toscana Ferdinando de' Medici di far trasformare il volto di Giovanna in quello di papa Zaccaria I. E tutto questo è testimoniato nell'archivio storico di opera della metropolitana di Siena, in cui c'è un documento che fa parte di una raccolta di memorie di eventi accaduti presso la metropolitana fra il 1380 e il 1776, che ne testimonia appunto il fatto. Tra il 7 e il 9 agosto 1600 gli ordini del pontefice furono prontamente eseguiti e anche da questo luogo si cercò di bandire per sempre la scomoda figura di Giovanna. Ultima traccia, la scuola di Atene. Per concludere il cammino di riscoperta della storia della papessa, noi della Scuola delle Donne ci permettiamo di condividere un'ultima riflessione, dettata dalla fantasia, dall'immaginazione e in parte anche dall'intuito, elemento costante del nostro metodo di ricerca. Questo pensiero ci è venuto osservando il dipinto di Raffaello Sanzio, La Scuola di Atene, databile al 1509-1511, situato nella stanza della segnatura, visitabile all'interno del percorso dei Musei Vaticani. Tale opera rappresenta un'immagine iconica della ricerca filosofica e scientifica dell'antichità, con i suoi rappresentanti più importanti immersi in un ambiente classico. Le 58 figure presenti nell'affresco hanno sempre interessato gli studiosi circa la loro identità, in quanto il pittore rappresentò i più grandi filosofi e matematici con le effigi degli artisti suoi contemporanei. Fu un modo questo di rappresentare la continuità fra sapere antico e moderno. In un mondo quasi completamente dominato dal sesso maschile, Raffaello ebbe l'audacia di rappresentare anche una donna nella folta schiera di filosofi e scienziati della Scuola di Atene. E da questa misteriosa figura nessuno è stato in grado ancora di attribuire un'identità certa. Storici dell'arte e critici ancora non hanno capito chi possa essere questa donna avvolta da una veste bianca, che è una delle quattro figure che addirittura volgono lo sguardo dritto verso l'osservatore. Alcuni hanno ipotizzato possa essere Ipazia, altra illustre antenata. Noi vogliamo pensare che Raffaello Sanzio, con questa immagine, abbia rappresentato l'archetipo di tutte le donne cancellate dalla storia patriarcale, fra cui anche lei, Giovanna, la papessa, nella Scuola di Atene, in quel luogo dove davvero era stata nella sua straordinaria vita, luogo che era stato fondamentale per la sua erudizione, dove aveva approfondito i suoi studi di medicina e teologia e da cui era partita alla volta di Roma, fino al soglio pontificio. Forse quella donna enigmatica è anche Giovanna, che ci guarda negli occhi e aspetta che la storia le renda onore. Conclusione. Oltre a Giovanna, ci sono state altre donne che nel corso della storia hanno indossato abiti maschili, travestendosi per sfuggire a condizioni di vita frustranti, per amore dello studio, per desiderio di avventura e paradossalmente per rinunciare a se stesse. Prima fra tutte citiamo Hua Mulan, il cui nome in cinese pare significhi forte orchidea. Essa prende il posto del padre nell'esercito, fingendosi uomo, e compie gesta memorabili nei 12 anni che trascorrerà in guerra. La sua storia risale al VI secolo d.C. Poi ricordiamo Mary Read, che visse come pirata agli inizi del 1700. Anna Schnell, soldato arruolato nella Marina Militare Britannica. Poi una donna di cui si conosce solo lo pseudonimo, James Barry, che nel 1800 ottenne il massimo riconoscimento come ispettore generale degli ospedali britannici. E ancora Loreta Yaneta Velázquez, donna cubana e soldato confederato, che travestita da uomo combatté per la Confederazione e organizzò da sola un reggimento dell'Arkansas. E più recentemente Teresina Gomez, una donna portoghese nota per aver trascorso quasi 20 anni fingendo con successo di essere un generale dell'esercito. Noi per caso, cercando segni della presenza di Giovanna la papessa fra i dipinti medievali alla Galleria degli Uffizi, ci siamo imbattute in un'altra donna, la cui storia si dipana in un tempo ancora più lontano e che, curiosamente, ha una storia simile a quella di Giovanna, soprattutto per la presenza di un figlio che nella vita di entrambe ha fatto la differenza nel segnare la rotta del loro destino. Per Giovanna un figlio è stato il confine sacro, forse, oltre il quale ha scelto di non andare, perché diventare madre probabilmente rappresentava un richiamo più forte anche dell'essere a capo della Chiesa di Roma. Per Marina di Bitinia, ovvero Santa Marina, vissuta in Turchia, probabilmente nella prima metà dell'anno 700, un figlio ha voluto significare un atto d'amore assoluto e disinteressato, per cui si potevano anche sopportare stenti e privazioni. Quella di Santa Marina è una delle storie più singolari della Chiesa antica. Essa divenne santa intorno all'VIII secolo, dopo una breve e intensa vita passata in convento sotto mentite spoglie, accanto al padre che doveva aver scelto la via che aveva scelto la via dell'ascesi a seguito della vedovanza. In convento Marina fu falsamente accusata di essere padre di un bimbo nato da uno stupro a lei imputato. Marina, ovvero Marino, prese con sé il bambino e anche se fu allontanata dal convento e costretta a vivere di stenti, lo allevò con amore. Fu un esempio così sublime di devozione e rettitudine che 3 anni dopo fu richiamata in convento insieme al bambino che aveva adottato. Fu solo a seguito della sua morte, avvenuta a 25 anni, che i confratelli si accorsero della sua vera identità e l'ammirarono ancora di più per aver sopportato con umiltà e fermezza le calunnie ricevute. Da allora divenne Santa Marina, donna padre e vergine madre, protettrice dei parti e del latte materno, che si dice fosse sgorgato miracolosamente dal suo seno per sfamare il bambino. Dal 1200 le sue spoglie sono custodite e venerate a Venezia, città di cui è patrona. Nell'iconografia, sia Marina che Giovanna sono rappresentate insieme al proprio bambino. Riflessioni personali. La papessa Giovanna mi ha chiamata la prima volta diversi anni fa, quando mi trovavo in viaggio verso la Basilicata per trascorrere le vacanze estive insieme agli amici, con mia figlia ancora piccola. Durante una sosta all'autogrill mi sono imbattuta nel libro di Donna Wolf Cross e fra le tante letture banali proposte sullo scaffale, l'unica decente e sufficientemente stuzzicante mi era sembrato proprio il romanzo della papessa. E così l'ho preso, senza nemmeno guardare troppo la trama. Arrivata a Maratea, poi, Giovanna ha iniziato a raccontarmi la sua storia. La leggevo, nelle ore sospese di canicola pomeridiana, mentre adulti e bambini si dedicavano un po' di riposo, prima di rituffarsi nelle camminate, nel sole e nei bagni interminabili. Pagina dopo pagina, per me, quello è diventato un appuntamento sempre più atteso, in cui facevo un viaggio nel tempo e mi ritrovavo insieme a lei, nel suo mondo, in quel periodo storico, affascinante per i posteri, ma anche brutale e spietato se ne eri testimone diretto, e soprattutto donna. Quando, grazie alla Scuola delle Donne, ho ritrovato di nuovo Giovanna, mi sono sentita onorata, come se lei mi avesse scelto una seconda volta per raccontare la sua vita straordinaria, che io non ho alcun dubbio essere stata reale, anche perché, come scriveva Vallée de Virvilliers, archivista e storico francese, dovunque voi vediate una leggenda, potete essere sicuri, se andate in fondo alle cose, di trovare la storia. Il messaggio che mi ha lasciato la papessa, ma anche tutte le altre donne nel corso della storia che hanno assunto un'identità maschile, è che alcune volte, per rimanere fedeli a se stesse, alle proprie passioni, e al desiderio di vivere appieno, si può persino scegliere di rinunciare a tutto, anche alla propria identità. Le donne sono tutt'altro che il sesso debole, riescono anche a spostare le montagne, a patto che scoprano cosa fa cantare il loro cuore. E di questa illustre antenata mi ha colpito anche il fatto che sia riuscita a rimanere viva nella memoria popolare attraverso i secoli e nonostante una cultura patriarcale che ha cercato in ogni modo di negarla. Probabilmente ciò è accaduto perché Giovanna, oltre ad aver osato desiderare di essere responsabile di se stessa e di avere un completo controllo sul proprio destino, che sono queste caratteristiche tipiche maschili, si è anche messa al servizio della sua comunità nel modo più amorevole e valoroso, usando il suo potere per il benessere collettivo e facendo questo, sembra proprio riuscita nell'intento più alto di incarnare in sé un matrimonio sacro, e cioè unire l'energia maschile e l'energia femminile. Ho parlato.